Ma la situazione dopo i disastri, l'uscita di alcune corsi d'acqua minori e la rottura dell'argine del Panaro, che è l'evento più grave, insomma, è comunque di allerta, nel senso che le piogge di oggi continuano a mettere sotto osservazione i nostri fiumi. Bisognerà vedere cosa succede nelle nevi dell'Appennino, perché ancora una volta anche nella situazione del Modenese si è verificato un episodio che abbiamo già visto nel passato recente, cioè neve sui crinali con aumento di temperature su cui cadono poi piogge intense, quindi c'è una massa d'acqua che improvvisamente scende a valle, quindi potrebbe capitare ancora. E si sta discutendo anche su come usare l'auto Brennero per realizzare delle nuove autostrade in quello che però è uno dei nodi idraulici, insomma, più a rischio, quindi che conseguenze avrebbe questo? Ma noi abbiamo stigmatizzato questa cosa soprattutto dal punto di vista dell'interesse politico, che ancora una volta è strabico e guarda nella direzione sbagliata e mette a fuoco priorità sbagliate, perché a Modena, un territorio che è stato molto colpito dei problemi idraulici, se vi ricordate il Secchi qualche anno fa con una rottura analoga dell'argine, in quel caso con danni molto maggiori, hanno colpito anche molte attività produttive, quindi tutti sappiamo che lì c'è un sistema molto fragile. La politica, se leggiamo i titoli di giornali, continua a dibattere da tempo sul fatto che bisogna realizzare due autostrade, una per servire il distretto ceramico, chiesta da Confindustria Ceramica tra Campo Gagliano e Sassuolo, e l'altra la Cispadana. Questo significa andare a portare altro cemento, che vuol dire quindi ridurre ancora la capacità di assorbimento del suolo e quindi trovarsi poi corsi d'acqua sempre più pieni, e dall'altra incentivare un traffico veicolare che al momento è ancora tutto basato sugli idrocarburi, e quindi vuol dire aumentare le emissioni di gas serra e l'inquinamento locale. E a proposito di riduzione, si stanno riducendo anche le aree naturali a disposizione dell'acqua, perché appunto c'è questa crescita soprattutto legata alle strutture logistiche e ai poli commerciali. Come si può gestire questa situazione? Sì, ma sono due temi tra loro collegati, uno idraulico ed è il dibattito sui fiumi, no? C'è sempre il dibattito che tipo calcistico tra chi sostiene che i fiumi vanno ancora più regimentati, bisogna tagliare ogni albero, e chi come noi, ma come la comunità scientifica e anche l'Unione Europea, sostiene che bisogna trovare delle soluzioni che permettano all'acqua di avere spazi naturali più ampi, perché questo di per sé ridurrebbe il rischio valle, quindi bisogna lasciare spazi di naturalità intorno ai fiumi e non pensare che noi li possiamo alzare sempre di più gli argini, perché poi quando crollano evidentemente i danni sono sempre più grandi. Questo è legato al tema delle scelte urbanistiche che ancora continuano, come dire, in senso lato, non solo a fianco ai fiumi, a guardare al consumo di suolo e non alla rigenerazione urbana. Noi nella giornata del suolo, che era sabato scorso, sembra quasi un'ironia, insomma, avevamo proprio provato a sollevare il tema su due dei principali temi di consumo di suolo della nostra regione, che sono i poli logistici e il commerciale, perché in un periodo di crisi dell'edilizia che va avanti, insomma, da qualche anno, in realtà questi settori continuano a chiedere spazi per quanto riguarda i centri commerciali, spesso nelle periferie o nelle ultime zone verdi delle città, penso a un caso a Cesenatico, a Reggio Emilia, dei supermercati Conad, e la logistica, c'è un caso drammatico a Bologna dove si andranno a cementificare le ultime risaie della provincia, quindi con un valore storico enorme, facendo un polo logistico che non è neanche collegato alla ferrovia e quindi ci obbliga assolutamente a portare le gomme e il materiale su gomma, non per non parlare poi di Piacenza, dove la logistica ha veramente consumato campagne e continua a consumare campagne, insomma, complice anche un po' le nostre modalità di acquisto, no, che chiedono questi spazi. Ci sono molti capannoni vuoti, purtroppo la politica non ha la forza o non vuole imporre che vengano riutilizzati questi spazi. E rimanendo sempre in tema politico, la regione ha stanziato qualche fondo, sta facendo partire qualche iniziativa per risolvere questa situazione? La regione, c'è una nuova giunta, l'assessore per quanto riguarda, c'è la prevenzione, l'assessore Priolo ha annunciato, e speriamo poi che questo si trasformi in realtà, che chiederà all'interno anche della pianificazione, quella europea, insomma, del Next Generation, che ingenti risorse per interventi di sicurezza idraulica, anche con un'attenzione a quello che dicevo prima, alla naturalità dei fiumi. Bisogna vedere se questo si concretizza, però bisognerebbe che i suoi colleghi che si occupano di territori e di infrastrutture facessero cose coerenti con questo, cioè quindi riducendo il consumo di suolo e rinunciando a inutili autostrade. Se questo non avviene, continuiamo a rincorrere un problema che diventa sempre più grave.